Sono un chiodo entrato per sbaglio nella ruota di una bicicletta. Non era mia intenzione, giuro, procurare un simile danno. Ma ti sarò vicino, io ti sarò addosso, perché starti vicino adesso è tutto quello che posso. Ma non mi prenderò cura di te. Sono un chiodo entrato per sbaglio nella ruota di una bicicletta. Non me ne posso andare, non mi posso muovere, non posso scappare. L'aria mi spinge, mi porta a lasciare la presa, ma resto aggrappato. Un senso mi hai dato, un senso mi hai dato e continuo a girare. Io non voglio mollare, ma no, mi prenderò mai cura di te. Io no, mi prenderò mai cura di te. Io no, mi prenderò mai cura di te. Io no, mi prenderò mai cura di te. Sulle ultime note di Chiodo Fisso diamo il benvenuto a Paolo, batterista degli Eugenio in Via di Gioia. Ciao. Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti. Allora, è uscito l'anno scorso il vostro secondo album, Tutti Super Terra. Esatto. Beh, no, il 14 aprile 2017, esattamente, quindi praticamente un anno fa. Ok, e state raccogliendo un grande riscontro. Sta andando bene, sì. Il fatto è che proprio dopo un anno si riescono a raccogliere i frutti di questo disco, quindi siamo molto contenti di questo. Io volevo però ritornare per un attimo alle origini e quindi chiederti un po' come nasce Eugenio in Via di Gioia. Noi nasciamo per strada, nasciamo per le strade di Torino suonando appunto come buskers, strumenti acustici, quindi fisarmonica, chitarra acustica, cajon, basso acustico. E poi adesso in quest'ultimo disco ci siamo evoluti, abbiamo introdotto la batteria, comunque dei suoni della giardiniera un po' più, diciamo, elettrici. Diciamo che questa nostra vena però artistica di strada non ci abbandona, perché chi viene a vederci live vede che proprio c'è questa voglia di teatralità e di dialogare col pubblico, come accade per strada. Ma infatti avete anche improvvisato un concerto sul treno recentemente, anche in Piazza Maggiore, proprio sì, qui a Bologna. Sì, esattissimo. Infatti è stato bellissimo, perché abbiamo detto, ma sì, prima della data a Bologna, un mese prima, facciamo questo raduno in Via di Gioia. Quindi era una roba appunto organizzata così in Piazza Maggiore, in cui suonavamo per strada e raccontavamo come eravamo nati, quindi i primi pezzi che facciamo per strada, le prime cover, e poi da lì tutti i pezzi nostri. Abbiamo fatto un'oretta di, diciamo, suonata per strada con i Baby Buskers ed è venuto un bel po' di gente, quindi è stato molto molto bello a Bologna, veramente. Ci sono state delle reazioni molto positive, infatti. Sì, sì, sì. Poi addirittura la Repubblica ci ha fatto un articolo dove noi suonavamo per strada a Bologna, bellissimo. No, quello anche, veramente. Invece, per quanto riguarda i vostri testi, io li ho trovati piuttosto forti e incisivi. Avete anche delle frasi quasi aggressive, come più bulli e meno ciccioni. Come sì, nascono sì, i testi sì. degli Eugenio in Via di Gioia? C'è un filo conduttore? Ma allora, nascono anche quelli per strada, perché praticamente Eugenio, il cantante, scrive i testi, ma lui cosa fa? Lui va per strada e cerca delle frasi guardando le reazioni della gente, quindi ogni volta, ogni brano nasce così, guardando le persone che passano per strada. E mi è sembrato che facciate anche molta attenzione ai videoclip. Ad esempio si è parlato del video del singolo Giovani Illuminati, che è girato sì, con sì, questa tecnica particolare. Sono delle vostre idee? Esatto. Sì, sì, sì, l'hyperlapse, tecnica hyperlapse, che è la stessa dello timelapse, però invece di essere la camera ferma, la camera è in movimento e ogni tot secondi, insomma, ogni tot secondi c'è la camera che scatta una foto, quindi è una tecnica che adesso, insomma, si usa abbastanza, però nel videoclip appunto non era tanto usata. Noi riusciamo a fare questa cosa qua, ci teniamo molto ai videoclip, quello sicuramente, anche perché secondo noi la fusione fra musica e video è molto importante. E invece con la tecnologia ho letto che avete un rapporto di amore e odio. Tu cosa pensi di questa intrusione delle tecnologie nella musica o di anche piattaforme come Spotify, di cui si parla molto ultimamente? Ma io penso, almeno personalmente, secondo me appunto è un'arma a doppio taglio, nel senso che Spotify, sia i social stessi, quindi Facebook, Instagram, ti aiutano a farti conoscere comunque di più a più gente possibile, cosa che una volta magari era più difficile, ci voleva più tempo. L'altra cosa è che comunque hai molta più concorrenza da un lato, nel senso che comunque adesso la gente è più facilitata anche magari a scrivere un disco, a fare un disco, che può fare direttamente a casa tranquillamente, può sponsorizzarlo benissimo, può farlo sentire a molte persone. Diciamo che prediligere diciamo, la positività, perché comunque adesso c'è più musica che gira ed è più positivo per tutti. Ho capito. Invece, sempre a proposito di video, è uscito il 3 aprile il video di Selezione Naturale, che tra poco andiamo ad ascoltare insieme a Willy Peyote. Come è nata, esatto, questa strana collaborazione? È nata in realtà una sera a Torino, eravamo io e Lorenzo, il bassista, non gli ha chiesto a Willy se voleva fare un, insomma, venire in sala prova a sentire dei brani. C'era venuto in mente così per caso una sorta di collaborazione, è venuto in sala prova, ha sentito il brano, appunto, Selezione Naturale, ha detto, ah, poi ci potrebbe stare qualcosa. Premetto che Eugenio, il cantante, non sapeva di questa collaborazione, nel senso che Willy Peyote è arrivato in sala prova e Eugenio fa, ah, non me l'aspettavo, perché Eugenio era un po' restio a fare featuring all'inizio. Ne l'abbiamo convinto, abbiamo detto, ma no, proviamoci, e poi alla fine Willy Peyote ha fatto un bellissimo featuring con noi ci siamo trovati molto bene. Strano, veramente strano, però bello. Avete fatto bene a convincere Eugenio, assolutamente. Sì, infatti, ce l'abbiamo fatta. Grazie Paolo, ti ringrazio per questa chiacchierata. Io ricordo a tutti di seguirvi e soprattutto di venirvi ad ascoltare il 27 aprile al Locomotive. Noi adesso ci ascoltiamo Selezione Naturale. Grazie ancora, va, ciao. Bene. Niente, ciao. Il male esiste, è un dato di fatto e non si può annientare. L'unico modo per contrastarlo è una forza uguale e contrariamente all'apparenza la paura è funzionale. Se tutti avessimo una pietra nessuno avrebbe il coraggio di scagliarla prima. Più bulli e meno ciccioni. Abbiamo bisogno di molti più bulli che sappiano difendersi da soli. Non è questione di grasso, di peso forma ideale. Ha più a che fare col cervello, la selezione naturale. Il somaro più intelligente prende di mira il secchione per nascondere i propri difetti, esalta nelle altre persone. Più bulli e meno ciccioni. Più bulli che sappiano difendersi da soli. Più bulli e meno ciccioni. Abbiamo bisogno di molti più bulli che sappiano difendersi da soli. L'educazione perfetta, lo sai bene, fallimentare. Troppi input esterni non si possono certo programmare. Videogiochi violenti, il wrestling, esempi negativi, i rapper. Ma mettiti nei miei panni, è il gioco delle parti. Serve un capro espiatorio che dica le cose che pensi per risparmiarti. Tipo che i gagni che a scuola subiscono fanno le multe una volta cresciuti, per vendicare gli anni di soprusi. Intanto la moglie li fa anche cornuti. E sti cazzi la legge di Murphy, quando mai vincono i bravi ragazzi. A volte il destino è crudele, va bene, ma a volte sei tu che ti meriti schiaffi. In strada lo imparano in fretta. Fa da maestra, fa da palestra, insegna che non serve alzare la voce per non abbassare la testa. E non devi mai avere paura, i cani sentono l'odore. Vince più forte da sempre in natura, e la paura dura più dell'amore. Voilà, scacco matto, l'amore è un pacco, la difesa migliore è l'attacco. E figurati se nucleare, per logica vincono i bulli su scala mondiale. Avete appena ascoltato, intervistati da Chiara e Eugenio in Via di Gioia. E ora è arrivato il mio momento preferito della puntata, il momento vintage di Absolute Beginners. Andiamo a riscoprire vecchi album d'esordio. Ve l'abbiamo già detto a inizio puntata, questa settimana tocca ai CCCP, perché io e Chiara siamo reduci dal concerto di sabato scorso di Giovanni Lindo Ferretti al Locomotive. Momento altissimo sicuramente, quando ha ricantato le vecchie canzoni dei CCCP, alcune proprio tratte dal primo album d'esordio, che lascio dire il titolo a Chiara, lunghissimo. Allora, affinità e divergenze tra il compagno Togliatti e noi. Forse mi sono persa dei pezzi. Del conseguimento della maggiore età. 1985, esordio fulminante dei CCCP, come altrettanto fulminato adesso è Giovanni Lindo Ferretti. E solo così si possono spiegare alcune dichiarazioni di Ferretti. Cavalli e montagne per tutti, noi però ce ne freghiamo assolutamente, apprezziamo tantissimo ancora l'artista, non ci esprimiamo su alcuni deliri. Speriamo abbia ragione Max Collini quando gli hanno chiesto di commentare le sue esternazioni su, per esempio, l'anno scorso sulla strage di Bologna. Speriamo che ci stia davvero trollando tutti, però quello che è oggettivo è che affinità, divergenze fra il compagno Togliatti e noi è un album stupendo. E noi cosa ci andiamo ad ascoltare? Andiamo ad ascoltare una canzone che purtroppo non ha cantato al concerto, che è Io sto bene. Esatto, noi ce la mettiamo apposta perché la volevamo assolutamente ascoltare, quindi noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento non a mercoledì prossimo perché sarà il 25 aprile. Ci ritroverete quindi fra 2 settimane sempre con Absolute Beginners e Nuova Musica Emergente alle 14.30. E vi ricordiamo anche la nostra pagina Facebook Absolute Beginners RCF per riascoltare i podcast delle nostre puntate. È una questione di qualità, è una questione di qualità.